un uomo che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa cosa pensi quando sei di schiena, le mani al muro mentre preghi ne valga la pena. Pulsa la vena sul suo collo mentre lo ami con lo sguardo di una bimba che viveva ancora in un racconto e trema ogni tuo arto mentre ti auguri un infarto o almeno un salto verso un altro astro. Ma almeno parti un giro d'alcol, distogli lo sguardo e almeno il calco del suo palmo appare un caldo incarto. Intanto l'hai fatto e non sai come. Resta l'odore del sudore sopra il tuo maglione e acerbo in bocca quel sapore come ortica al sole. Lascia le pustole, ti brucia, serve un estintore. Cerchi parole che attenuino il dolore ma ti chiudi dove sono nascoste le sue prove. Dentro al cuore piove, ora è mattina, sono già le nove. Asciugati, rialzati, ricordo che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa lo sconforto che si porta. Lui l'ha svuotato, più leggero, quindi che gli importa. Non c'è un pensiero che lo porta quella sera. Piedi scalzi giù riviera, lei ne era uscita più sporca e scappa intanto, cancellando ogni dettaglio. Resta soltanto il mare e il caldo di quel bagno. Ha perso la purezza, stesa su una sdraio. Mentre il mondo rideva, un pensiero le mangiava il cranio. Il fango è strano, più ti dimeni, più ci affoghi. Più tenti di scappare, più affondi in mondi di rovi. Su, provi ad urlare, ma la gente non ti sente più. Ti piazza nuda al rogo e dice, ri d'accordo tu. E se potessi, gli mostreresti i mostri che vedesti. Quando il sangue si fermò nei vasi e spense i tuoi lamenti. Quando ti abitua nel petto nulla, tranne che i tormenti. L'incapacità di urlare, come sogni quando ti addormenti. Sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia.